already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Every day I pray to get to know ya, please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me or the air that I feed. Sometimes the world is dark and I just can't see. With these demons around all around, they bring me down to negative vibes. I believe, yes, I believe, I said I believe. Natale, Natale a New York, possono capitare cose strane, visioni, incontri, eventi assai particolari che hanno poi anche dei significati che vanno al di là magari del puro suono, no? Quello che stiamo ascoltando in sottofondo, che appartiene per l'appunto a un personaggio che è contaminazione in se stesso, e per questo vogliamo premiarlo e dargli la copertina di Jefferson Ming di oggi. Lui si chiama Matisyahu ed è un rapper ebreo ortodosso, venato poi di reggae, anzi convinto che ci siano delle forti analogie, delle interessanti analogie tra il rastafarianesimo del reggae e il suono e soprattutto il messaggio delle canzoni assidiche. Tutto ciò perché a New York, ma nel mondo, è a Nuka e è cominciata da domenica una settimana di concerti di questo artista assai particolare, assai originale. Vi ricordo, si chiama Matisyahu, andate a cercarlo, si scrive Matisyahu. Se siete a New York, ma non sarete tanti ad ascoltarci, avrete meglio da fare. Suona alla Webster Hall, uno dei più belli anche come tra i locali di New York, una ex balera ristrutturata. Altrimenti ne sentite ancora qualche secondo qui a Jefferson Ming. I give myself to you from the essence of my beginning. I sing to my God. Songs of love and healing, I want Mashiach now. E grazie a Matisyahu e apriamo un po' leggeri, insomma, meno male l'odore del Natale arriva anche qua, anche nello studio dell'incontro Est-Ovest. Se è vero che sul Washington Post di oggi, insomma, un giornale di solito serio, proprio di quelli che non scherzano mai, beh, c'era un bel titolone che suona così: paparazzi Photog, che sarebbero insomma i paparazzi, fotografi, i paparazzi, Getz e Spectacular Obama Shot, dove l'Obama Shot è una foto di Obama, ma la Spectacular è naturalmente un gioco di parole sullo spectacular, no? Fanno una foto spettacolare a Obama, no, fanno una foto spettacolare a Obama, in quanto l'hanno beccato in vacanza al Hawaii, dove tutti sappiamo che lui è andato in vacanza al Hawaii con le bambine, la moglie, gli amici, i servizi segreti naturalmente, e la villa ce l'hanno fatta vedere anche in televisione, 9 milioni di dollari, la spiaggetta che però non è proprio privata, è accessibile, ma vi sfido ad accedere, e poi l'hanno fotografato in costume da bagno, da qui il spectacular, nel senso che vedendo le fotografie, insomma, dal nostro punto di vista ci sembra che lui abbia una pancia come noi, l'ombelico come noi, c'ha anche capezzolo, insomma è tutto ben formatino, tutto carino, però questo invece ha destato uno straordinario interesse mediatico che fa abbastanza schifo, diciamo, dal punto di vista della notizia, ma però da un po' la temperatura della attenzione, che può andare in tutte le direzioni, in su, in giù, verso un entusiasmo pazzesco o delusioni altrettanto sonanti per questo personaggio, che poi peraltro, come capita, no, nell'acceleratissimo universo contemporaneo, deve in effetti ancora cominciare a fare sul serio. Comunque le spectacular fotografie di Obama impazzano su internet, non avrete difficoltà certamente a trovarlo. E fortunato mister Frank Griffin, il paparazzo di qui sopra, che ha fatto lo scattino e ci si è pagato come minimo il salotto, il divano, forse anche la cucina. Novità riguardano ancora la inaugurazione del 20 gennaio. C'è una vera e propria frenzy, una vera e propria follia, una mania per questo evento, per questa giornata. Minaccia di essere uno degli eventi più visti, più seguiti della storia della comunicazione contemporanea. Oggi, così goccia a goccia, no, fanno uscire le notizie e le indiscrezioni gli abili gestori dello staff di Obama. Oggi è saltata fuori un altro particolare ghiotto, ma solo per i fanatici, ai quali tranquillamente ci iscriviamo, perché Obama, ribadendo, se andava ancora ribadito, l'ha ribadito 100 volte, comunque, il suo legame ideale, il suo modello di ruolo, di vita e comportamento, di politica, ovvero Abramo Lincoln, ribadendo questa propria proiezione, fa sapere che pronuncerà il proprio giuramento per la presidenza 2009-2012 sulla Bibbia di Lincoln, sulla Bibbia posseduta da Abramo Lincoln, la stessa sulla quale Lincoln giurò nel 1861, che poi l'abbia posseduta veramente è una nostra deduzione del tutto priva di fondamento, ma magari gliel'hanno lasciata, sicuramente non la lasceranno a Barack Obama, ma gli verrà tributato questo grandissimo onore. Ecco, ci stiamo informando, la Bibbia era proprietà del signor William Thomas Carroll, che era un impiegato della Corte Suprema, un dirigente della Corte Suprema, ed è stata appunto utilizzata il 4 marzo 1861 per il giuramento. Poi la Bibbia è entrata a far parte naturalmente della libreria del Congresso ed viene anche verrà esposta per motivi celebrativi proprio alla libreria del Congresso dal 12 febbraio 2009. Se siete feticisti, noi siamo feticisti di queste cose, e capitate a Washington, un'occhiata. Poi piovono i particolari, è risaltata fuori la storia di passeggini e ombrelli, povere le mamme che dovranno andare, ma perché mamme dovete andare alla inaugurazione sul Mall di Washington? Guardatela in televisione. Se volete andare e avete un bambino nel passeggino, lo zainetto per la pappa e l'ombrello perché piove, dovete lasciare giù passeggino, ombrello e zainetto, è tutto proibito sul Mall. Il bambino lo mettete al collo, gli omogenizzati in tasca, e l'acqua la prendete tutta. Questa è un'altra delle incredibili regole che governeranno questa giornata del 20 gennaio a Washington DC, con i milioni di persone attesi. E secondo me, io sono pronto a scommettere che alla fine ce ne saranno assai meno di quanto annunciato, perché le regole, secondo me, poi alla fine finiscono, no, per logorare. Comunque 23.000 pullman già prenotati, 500.000 persone arriveranno così, posti in aereo, 400.000 arrivano in aereo, mamma mia, 75.000 con altri voli aerei che non arriveranno a Washington, probabilmente in un altro aeroporto limitrofo. Washington comunque già ne conta due. Poi tutti quelli che arrivano in automobile, si fregano le mani i commercianti, ma non però i gestori di bar o pub, perché tra altre cose non si beve al giuramento, proibito scaldarsi con l'alcol, vietato il consumo sulla distesa del mall e dintorni di qualsiasi alcolico. Però ristoranti, pub, locali notturni resteranno aperti fino alle 4 del mattino successivo per questa grande festa, un evento eccezionale a tutti gli effetti. So many people are heading home for the holidays, including the president-elect. Barack Obama and his family arrived in Hawaii. Tutto verte attorno, l'attenzione mediatica americana verte interamente attorno alle vacanze di Barack Obama. Però oggi succede anche qualcos'altro che è degno di attenzione, e se la fortuna e la tempistica ci assiste, tra l'altro potremo anche in diretta darvene conto, perché dovrebbe oggi essere svelato il giallo sul possibile coinvolgimento di Barack Obama nello scandalo Blagojevich. Insomma, dovrebbero saltar fuori questi rapporti, queste indiscrezioni a lungo così sussurrate, sospirate, soprattutto i rapporti tra Rahm Emanuel, il capo dello staff di Obama, e il governatore dello stato dell'Illinois Blagojevich. Si sa per certo, insomma, che questo contatto ravvicinato in effetti almeno una volta c'è stato. Si sa per certo che Barack Obama avrebbe molto gradito Valerie Jarrett, la sua carissima amica, al suo posto nel seggio senatoriale a suo tempo da lui vinto. Si sa già che poi Valerie Jarrett è stata a tutti gli effetti inclusa nello staff presidenziale, nello staff della Casa Bianca, e quindi non ha più bisogno di quel seggio. Si sanno tutte le sciocchezze che Blagojevich ha detto per telefono, vantandosi di voler vendere, di voler fare mercimonio di quel benedetto seggio. Si sa che può darsi che Emmanuel ne abbia parlato con lui. L'argomento è delicatissimo, si dovrebbe arrivare a una serie di così certezze in tempi brevi, perché una delle ultime cose che lo staff di Obama vuole è trascinarsi dietro la questione fin dentro la Casa Bianca, cioè entrare alla Casa Bianca con così questa palla al piede di questa storia piuttosto oscura. Peraltro si sta un po' rasserenando anche il panorama del Partito Democratico a questo riguardo. Ci sono delle uscite delle ultime ore che tendono a minimizzare, anzi c'è una dichiarazione del Partito Democratico di un rappresentante che però non vuole identificarsi, che fa sapere che all'interno della organizzazione tutto l'affare Blagojevich viene considerato in buona sostanza molto rumore per nulla, e che quindi evidentemente regna un ottimismo che fa pensare che si possa chiudere l'affare. Io vi ricordo che abbiamo in funzione, oltre al nostro la nostra messaggeria SMS 349-238-6666, anche i nostri siti Facebook, Jefferson Ming Radio 24 si chiama quello da utilizzare per parlare con noi, soprattutto nel corso della trasmissione, o comunque inviarci messaggi, proposte, osservazioni e quant'altro. Poi ce n'è anche un altro che si chiama redazione Jefferson Ming, con il quale parlate invece direttamente con noi, magari in fuori onda, no, per comunicazioni di altro genere. E ora vi mando dei suoni che per fortuna non annunciano, come si è detto lungamente nelle ultime ore, una disdetta. Per fortuna le smentite sono arrivate tutte, sembrano anche piuttosto rassicuranti. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power and it makes me feel like he makes me feel like just rise. Sentite quel giretto di basso, quel lick di basso che porta avanti tutto il pezzo finché non ne hai abbastanza, come titola l'inaffondabile Hit, 25 anni di età di Michael Jackson, 50 anni d'età e ieri dato da buona parte della stampa mondiale per, non dico morto, ma quasi. Beh, sono arrivate per fortuna le smentite e anche credibili, insomma, da tutto lo staff e l'entourage, anche perché la notizia era uscita inizialmente, poi è stata ritirata sul sito del quotidiano, ma era uscita sul sito internet del quotidiano, ma era uscita inizialmente su The Sun, che è naturalmente un quotidiano popolare britannico che le spara sempre grosse, con la caratteristica che però spesso e volentieri ci acchiappa, le prende e quindi è assai ben informato. Si diceva che Michael Jackson fosse praticamente in punto di morte, più di là che di qua, vittima di una misteriosissima malattia che lo costringeva a ogni genere di trapianto, insomma una cosa ereditaria molto grave e forse insanabile, aveva già perso la vista. Adesso arrivano le smentite dai comunicatori dell'ufficio stampa di Michael Jackson, che fa sapere che è in ottima salute, che sta addirittura negoziando con una nuova etichetta, una televisione, sta facendo tour mondiali, insomma dalle stalle alle stelle. A me che Michael Jackson stia molto male dispiaceva un pochino, immagini vostri, chi se ne frega, che partono come raffiche implacabili, ma a me comunque, insomma, come dire, fa compagnia e queste notizie, se non altro, sono rassicuranti. Quindi a Natale anche Michael Jackson, come si dice, mangerà il panettone. Prima pagina. Come il tuo allenatore lì, qual è il mio allenatore? Lo speciale, no? Lo speciale, vabbè, abbiamo detto il mio tifo. Vabbè. No, intanto mi associo al sollievo per Michael Jackson, anche se credo che canzoni belle come quelle che abbiamo appena sentito. Adesso vado su Facebook e faccio il sito. Siamo sollevati per Michael. Siamo sollevati per Michael. Allora, se io invece, Stefano, ti dico Tuan e Yuan, sollevo qualche emozione dalle tue viscere. Sollevi dei ricordi freschissimi, di un pomeriggio bellissimo insieme a te in cui abbiamo parlato di Panda, uno dei miei argomenti preferiti. Giusto 24 ore fa parlavamo sempre da queste frequenze di Panda, perché sono i due panda della riappacificazione tra Cina e Taiwan, i panda che il governo cinese ha donato a Taiwan. Ieri abbiamo dato la notizia che erano partiti, stavano per partire alla volta dell'isola di Taiwan. Oggi vi diamo la notizia che sicuramente avrà su tenuto una panda, appesi. Mi suggeriscono vabbè, gli spiritosi di là. Immagino che molti saranno stati appesi per sapere il destino di questi panda. Sono atterrati serenamente, felicemente a Taiwan, ma la notizia più inquietante, tante secondo me, è che la televisione taiwanese ha fatto in diretta lo special. Sull'arrivo, sull'atterraggio del jet dell'Eva Airways che ha portato i due panda la televisione taiwanese dalla Sichuan a Taiwan, che fa anche rima. Peraltro Taiwan ha già pronto il controregalo, contropacco e qui veramente chiedo il soccorso del popolo di Facebook ascoltatori via SMS, perché non so veramente di cosa si tratti. Vai. Taiwan è pronta a inviare in Cina due Serov, non so come pronunciarlo, Savona, Empoli, Roma, Otranto, W. Sì. Si tratta di due mammiferi tipici dell'isola di Taiwan che tutti sicuramente conoscono, che assomigliano a delle capre. Quindi tu stai chiedendo agli ascoltatori cosa sono i Serov? Io non lo sapevo, l'ho scoperto da questa agenzia di pochi minuti fa. E vogliamo farli faticare per questo? Qualcuno vedrà che andrà a cercare Serov su internet e ci darà informazioni. Va bene, che vengano i Serov allora. Come si chiamano? Tintin, quelli due? Tuan Tuan e Yuan Yuan, che insieme vogliono dire unificazione. Ti stai mettendo su una bruttissima strada. Brutta china, sì, lo so. Però è Natale, si perdona tutto, si perdona anche che la rivista Golf Digest, che di golf si occupa, uno degli sport a mio parere meno televisivi del mondo, ma comunque abbia pubblicato proprio in relazione al suo numero speciale una classifica dei golfisti potenti di Washington. Ed ecco che al 123esimo posto chi spunta? Chi vuoi che spunti? Obama. È Obama, naturalmente. Che non ha brillato nell'esibizione. Appunto, quello sapevo anch'io, ma adesso viene fuori che è il 123esimo giocatore di Washington, non ci credo neanche morto, e ottavo addirittura tra i 44 presidenti, insomma. Fra gli 44 presidenti golfisti, fra i 44 presidenti, non sappiamo quanti fossero golfisti a suo tempo. Ma c'è Bush, per esempio, in questa classifica. Sì, Bush secondo me è di brutto avanti a, molto quotato, a Obama. Aspetta, abbiamo informazioni. Perché non dico tutto ciò che so? In una partita presidenziale vincerebbe JFK, come al solito, vince sempre lui, considerato il più forte golfista che ha occupato lo Studio Ovale. Segue Dwight Eisenhower, Gerald Ford e il grande, molto rinascente, molto, molto riscoperto FDR, ovvero Franklin Delano Roosevelt. Obama si accontenta di superare in classifica Ronald Reagan, nono, e Richard Nixon, tredicesimo. La perversa agenzia, come al solito, non ci dice dove si classifica George W. Bush. Per me di George W. Bush non si parla. Clinton, sappiamo. Non si parla, è come quelle canzoni di una volta che non si diceva neanche il titolo. Niente. Noi siamo contrari a questo. Neanche di Bill Clinton si parla. Ormai è già dimenticato Bush, insomma. Vabbè. Allora, continuiamo con queste notizie un po' stravaganti. Io, dopo i Panda, te ne esibisco un'altra, Stefano, sì, e a tutti gli ascoltatori. Parlo di un film che forse tu conosci, che è Notturno Bus, un film dell'anno scorso, di qualche anno fa. Film italiano. Firmato da Davide Marengo, con Giovanna Mezzogiorno, Valerio Mastandrea, Ennio Fantastichini e il mio concittadino Roberto Citran Padovano. La notizia che riguarda la Cina è che da gennaio discutibile pare... giocatore di basket. Pensavo di golf anche lui. No, la notizia è che da gennaio pare che il film, dopo aver avuto un discreto successo in giro per l'Europa, ma anche, leggo, in Corea del Sud e Nuova Zelanda, arriverà in Cina con 300 copie, che non sono neanche pochi. Però insomma, andremo questa, a verificare questa notizia, perché appunto è tutta da appurare. La verifichiamo. Diamo invece purtroppo una notizia triste per gli amanti del cinema. A 83 anni si è spento un regista non considerato un maestro, però considerato un serio professionista e per me anche un passino di più, qualcosa di più. Robert Mulligan, Il buio oltre la siepe. Basta quello. Ed è detto tutto. To Kill a Mockingbird, no? L'indimenticabile film con Gregory Peck e il libro spezzacuore meraviglioso di Harper Lee. Passaggio di consegne. Ed eccoci di nuovo in diretta, Jefferson Ming. Stiamo ficcando la testa dentro questo Facebook, che poi, essendo Natale, funziona quando gli va, quando ce lo consente. Abbiamo lanciato oggi sui siti un tema di discussione, avete risposto, adesso ve ne renderemo conto, perché vogliamo parlare non tanto di Clinton, non tanto di Hillary, non tanto di Bill, quanto di clintonizzazione, un fenomeno assai di moda, ad esempio nei dibattiti tra editorialisti americani, ma sembrerebbe assai di moda soprattutto alla Casa Bianca. Insomma, se si dice che Barack Obama forse non ha sbagliato neanche un colpo nel mettere su lo staff della futura amministrazione, si nota anche come il change, no? In questa costruzione, in questa edificazione di una squadra, è stato, come dire, molto prudente, perché ha tenuto conto soprattutto di una squadra che già c'era e che aveva funzionato anche a dovere, ovvero quella che Bill Clinton mise in piedi per i suoi due mandati. Non è un caso che arriva, ad esempio, la notizia che a sua volta Hillary Clinton, che peraltro si sta dando molto da fare in questo suo avvicinamento al segretariato di Stato, ad esempio sta chiedendo, probabilmente ha anche concordato preventivamente, un ampliamento dei poteri nonché dei fondi a disposizione del proprio ufficio, e poi a sua volta sta formando una squadra, la squadra che la sosterrà e la aiuterà durante il suo mandato, e anche qui risaltano fuori dei nomi che già si conoscevano perfettamente. Ad esempio il New York Times oggi pubblica l'indiscrezione che uno dei primi a essere scelto da Hillary Clinton è quel Jacob J. Liu, che è già stato direttore del bilancio durante la presidenza di Bill Clinton e che avrà il compito di gestire il budget eccezionale, naturalmente straordinario, assegnato al Dipartimento di Stato. Con lui ci sarà James B. Steinberg, ex consigliere per la sicurezza nella amministrazione Clinton, e ci risiamo, e anche lui, quindi insieme a Liu, strettissimo collaboratore di Hillary. Il nuovo Dipartimento di Stato dovrebbe poi nominare diversi inviati speciali, e si ripensa appunto ai tempi di Bill Clinton, quando personaggi come Holbrooke, Dennis Ross e altri diplomatici svolsero un ruolo centrale nelle crisi all'epoca dei Balcani e del Medio Oriente, e pare proprio che i nomi che si fanno, guarda caso, siano quelli di Holbrooke e Ross, e quindi potrebbero tornare in scena. Di questo nuovo, seminuovo, nuovino, non so come dire, vorrei fare due chiacchiere insieme a un abitué di Jefferson Ming, il nostro amico Pietro Paganini, presidente di Competere, un think tank italiano che elabora strategie per il libero mercato, ma anche un appassionato di America, oltre che un docente di management alla John Cabot University di Roma. Ciao Pietro. Buon pomeriggio, ciao a te. Buon Natale, auguri anche a te e a tutte le persone che ti sono care, e dacci un po' un parere. Insomma, vogliamo dirlo che la riclintonizzazione, parola micidiale, riclintonizzazione della Casa Bianca è un fatto assodato. Poi, per carità, il capo è nuovo di zecca, però insomma un po' sotto, mica tanto. Beh, questo potrebbe dare vittoria o far gridare vittoria a coloro i quali sostenevano che Barack Obama non avesse né contatti a Washington né soprattutto l'esperienza per fare un governo forte e solido, soprattutto a fronte di una crisi. E questo dimostra che probabilmente Obama, essendo novizio di Washington, è costretto a rifarsi poi a tutto l'entourage democratico clintoniano. Dall'altra parte dimostra anche, ma questo è un problema che risalirebbe anche ai repubblicani, che da Clinton ad oggi il Partito Democratico non è riuscito, se non in parte, a rinnovarsi, nonostante il change e il New Deal invocato da Obama. Però fondamentalmente poi l'establishment del partito e la leadership del partito, sia a livello consulenziale, perché bene o male tutti questi che vengono richiamati sono personaggi che operano sia a livello di consulenza sia a livello di think tank, e sono rimasti bene o male gli stessi, quindi se da una parte i repubblicani possono gridare vittoria o gli antagonisti di Obama, dall'altra c'è anche qualcosa di cui preoccuparsi sia all'interno dei democratici, ma ripeto, il problema si sarebbe posto anche all'interno, anzi forse si sarebbe ancora più posto all'interno dei repubblicani. Dunque ti leggo qualcuno dei messaggi arrivati nel frattempo al nostro sito di Facebook. SMS o via Facebook, scusami. Un po' di tutto, ormai mescoliamo e facciamo un grande calderone, ma Facebook sta andando molto forte in questi giorni. Dunque vediamo, Mauro scrive: esistono uomini democratici capaci e no, e siccome la conclusione dell'era Bush dimostra, gli uomini di Clinton hanno fatto vivere meglio gli americani e di conseguenza mezzo mondo, e allora ben vengano. In un certo senso Mauro dice: ma se erano bravi e se hanno fatto funzionare le cose, perché no? Oppure vediamo, Hermes scrive: il fenomeno parallelo è la obamizzazione di parte dell'Europa, di cui l'Italia condivide aliquota importante. Ecco, ci mancava la scossa di terremoto, no? per appesantire alcune atmosfere. Comunque torniamo ai nostri ragionamenti, Pietro. Insomma, un ascoltatore dice: se c'erano e funzionavano, perché non richiamarli? Un altro dice: strano che però tutto il mondo, tutto l'Occidente che guarda al modello americano sia rimasto affascinato più che dall'ipotesi di gestione, diciamo così, in stile Clinton, dall'avvento dell'uomo nuovo, tra virgolette, un alone di luce, no? Due fenomeni in fondo non perfettamente concordi, no? Sì, parlando del terremoto bisogna capire se l'ha fatto Obama o io il terremoto, adesso certo. Stavo per andare a Milano, quindi certo. Mi spavento un po', però battute a parte, certo. Mauro credo che abbia ragione, cioè affronta il problema dal lato opposto da cui lo vedevo, cioè io parlavo di un mancato rinnovamento del partito, Mauro giustamente dice: però se sono stati bravi, ed effettivamente molti, penso anche a un mio caro amico che è Robert Shapiro, che non è in questo governo, non è stato ancora chiamato da Obama, però hanno fatto molto bene, e quindi squadra che vince, giustamente dice Mauro, non si cambia. Certo. Però io continuo a guardare, questa è una sensazione che ho avuto soprattutto la settimana l'altra negli Stati Uniti, soprattutto in ambito repubblicano, ma anche in ambito democratico c'è un po' di paura, perché si dice: bene, c'è un uomo nuovo che è Obama, è un grande cambiamento, però dietro Obama e dietro a questo cambiamento c'è veramente un'America che segue a livello politologico, a livello di Washington, e la paura è che ce ne sia ben poca, cioè che Obama sia un po' un'eccezione e che i due partiti facciano veramente fatica a rinnovarsi, soprattutto quello repubblicano, a trovare una nuova leadership, sia politica che dal punto di vista anche dei contenuti. E per ricollegarmi, per allargare un attimo il discorso al Partito Democratico e scusami, repubblicano e al mondo repubblicano, quello che spaventa ancora di più oggi è che molti dei think tank repubblicani non si siano resi conto degli errori commessi e della necessità di trovare al loro interno un Obama, ma anche una serie di tanti piccoli Obama che possano garantire un nuovo cambiamento, quello stesso cambiamento che poi ha permesso al repubblicano di avere due Bush eletti, certo. Praticamente quasi uno di seguito all'altro. Ecco, io volevo sottolineare, prima di farti l'ultima domanda, che in un interessante articolo uscito sul New York Times oggi, Hillary Clinton, o chi per lei, insomma, fa capire che l'interpretazione da parte del personaggio, da parte della Clinton, del ruolo di segretario di Stato sarà, come dire, a 360 gradi, e ce ne metterei anche qualcuno in più di gradi, ad esempio che vuole che la propria voce abbia capitolo importante nelle questioni economiche, vuole avere un ruolo prioritario nei rapporti internazionali, in particolare con la Cina, con cui sostiene di essere in grado di poter raggiungere risultati efficaci. Però l'ultima domanda, prima di lasciarci, abbiamo un minuto, Pietro, vorrei fartela proprio su questa tua frequentazione di think tank, soprattutto conservatori a Washington, per capire appunto se nel frattempo la sconfitta, la botta è stata assorbita, e se mi ribadisci questo fatto, i giornali americani spesso invece provano a essere ottimisti, dicono sì, la ricerca del successore è già in corso o no secondo te? Guarda, mi hai ucciso dicendomi che vado solo in quelli conservatori. No, no, no, che c'è? No, no, io lo dico perché... Liberali nel senso classico del termine. No, no, ma voglio attestare una cosa. I più interessanti think tank di Washington hanno uno stampo conservatore. Questo i frequentatori della città lo sanno. No, no, Dio ci guardi. Ti sei salvato, no, ma era una battuta. Certo. No, in realtà la preoccupazione è che c'è una riflessione all'interno del partito repubblicano, dei movimenti repubblicani. Ricordiamo che i partiti in America in realtà hanno un peso molto scarso. Sono più i think tank, i movimenti, i cosiddetti third parties che gli stanno attorno, che fanno poi opinione. Però la mia sensazione è che soprattutto nella parte conservatrice, quella evangelica, religiosa, il cosiddetto movement, no? Lì si faccia veramente fatica a capire, cioè è nato quasi un odio viscerale un po' all'italiana, no? Nei confronti dell'avversario, in questo caso nei confronti di Obama, lo attaccano, lo accusano di essere un socialista, cosa che non è. Insomma, gli danno tutta una serie di accuse senza vedere quello che è il vero problema, che è quello che abbiamo detto prima e che hai evidenziato tu, cioè che è la necessità di cambiamento da parte del Partito Repubblicano. Alcuni think tank, alcuni rappresentanti mi hanno detto: noi abbiamo dei principi e dei valori forti, ma nell'ultima elezione questi principi e questi valori non sono stati assolutamente rappresentati. Era più una gara a demonizzare l'avversario, era più una gara di inseguire dei valori che sono minimi all'interno del movimento repubblicano, cioè per esempio quelli religiosi. Si faceva il riferimento ancora una volta a Giuliani, perché si riteneva oggi che Giuliani potesse essere poi il vero avversario, più forte avversario di Obama, e si diceva Giuliani è stato estromesso dalla competizione non solo perché ha sbagliato campagna, ma perché poi lo si accusava di scelte morali assolutamente sbagliate, ma in realtà ad accusarlo di scelte morali sbagliate è una minoranza del partito, certo. Che però è una minoranza che a Washington conta tanto. Ti fermo Pietro, perché stiamo andando fuori con il tempo. È un dibattito attorno al quale naturalmente continueremo a ragionare. Intanto buon viaggio, buone feste, risentirci. Grazie a te e buon anno a tutti i Jefferson Ming, ci vediamo su Facebook a questo punto, certo. Soprattutto con te. Ciao. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe can help to make a season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. I vostri sms di emozione, anche di allarme naturalmente, relativi al terremoto. Ci chiedete se l'abbiamo sentito qua a Roma centro. No, non l'abbiamo sentito, anche abbastanza in alto, ma per ora dalle informazioni che sono arrivate fin qui dai notiziari, anche dalle nostre breaking news, non si parla di Roma come zona sia pure periferica colpita dalla scossa. 16:25 è l'ora annunciata da Enzo da Lecco con un sms, dice scossa e tre sussulti successivi, poi una infinità di messaggi che parlano, che arrivano da tutte le aree del centro nord, Cremona, Verona e quant'altro. Abbiamo in linea per parlare in realtà di tutt'altro un amico del programma, un amico di Jefferson Ming, Daniele Barbone, il direttore di BPSEC, un'azienda che si occupa di certificare la qualità del Made in China in arrivo sul mercato europeo. Ma Daniele, che spesso è in Cina, dove anche la terra spesso è inquieta, ma in questo momento è a Milano. Allora Daniele, facciamo una breve deviazione. Prima di tutto buon pomeriggio, ma dacci notizie, se dalle parti tue cosa hai sentito, cosa sai? Beh, io in quel momento ero al piano terra, quindi non ho avuto modo di accorgermi assolutamente di nulla. Vedo dalla mia pagina di Facebook che molte persone nell'intorno, nel milanese, chi aveva uffici nei palazzi alti, indicano che hanno sentito la scossa, ma qua non si è sentita. E la situazione è tranquilla, la vita scorre, insomma? Assolutamente sì, si procede. Bene, bene, allora abbiamo invece un pugno di minuti per fare quattro chiacchiere che sono anche un po' un punto sulla situazione di un anno di conversazioni, approfondimenti, di question time. Insomma, abbiamo usato la tua competenza in tanti modi diversi per anche per aiutare, anche per fornire un servizio a chi ci ascolta attorno poi a questo gigantesco punto interrogativo che circonda essenzialmente una produzione intesa quasi in generale, no? in una chiave totale che dalla Cina ormai sbarca in Italia da ogni porto e da ogni punto di arrivo possibile. Se tu provassi a fare una specie di bilancio, no? sia della informazione ma anche un po' della ricezione e forse anche dei meriti che vanno accordati o non accordati al prodotto cinese che sta arrivando in Italia, insomma il 2008 secondo il tuo expertise, nel tuo campo di indagine, come è andato? Beh, noi venivamo da un 2007 nel quale c'era stato lo scoppio del caso Mattel, quindi un anno che era stato molto difficile, che aveva messo sotto l'occhio dei media e dell'attenzione internazionale e degli osservatori più attenti quello che succedeva nelle produzioni cinesi. Il 2008 è stato un anno nel quale, se vogliamo, l'attenzione si è invece centrata sul caso dei prodotti alimentari, che di certo hanno avuto problematiche soprattutto all'interno del mercato cinese, non già con riferimento alle esportazioni, perché poco del prodotto alimentare cinese finisce poi nei mercati europei e nordamericani. Quindi l'attenzione si è spostata in altri comparti. Il tema della sicurezza quest'anno è entrato prepotentemente dentro l'agenda anche politica e istituzionale cinese ed è un argomento sul quale dei passi avanti si stanno facendo e forse anche questa crisi sarà un'ulteriore occasione con la quale dei passi in avanti verranno fatti. Tutto questo discutere, anche questo preoccuparsi attorno alle contaminazioni. Contaminazione, secondo te, continuerà a essere una parola chiave, una keynote anche nel 2009? Assolutamente sì, la Cina produce il 70% per l'esportazione, quindi evidente è la fabbrica del mondo come tutti quanti diciamo. È assolutamente chiaro che questo argomento lo troveremo ancora nel momento in cui il mercato ha delle flessioni e quindi si orienta magari su una contrazione dei consumi, i prodotti a minor valore unitario sono quelli che tutto sommato ne risentono in modo minore e quindi i prodotti che vengono dal mercato cinese, che in gran parte sono ancora, lo sappiamo, ancorché qualcosa sta cambiando, ma comunque sono ancora dei prodotti che vanno a coprire le fasce medie e medio basse del mercato, è ben evidente che saranno ancora prodotti trainanti e quindi l'attenzione sui prodotti che vengono da quel mercato è sicuramente un'attenzione che anche nel 2009 ci porterà a parlare ancora dei prodotti. Si sposteranno forse gli orizzonti, ci siamo spostati dall'industria elettrica e elettronica ai giocattoli con una previsione che avevamo fatto su Jefferson Ming, essendo anche un po' dei precursori di quello che stava succedendo. Ci siamo spostati all'alimentare, abbiamo fatto delle previsioni partendo dal latte, spostandoci sui prodotti a base di soia. Sicuramente dovremo guardare ancora il 2009 con un anno di attenzione, guardando a quello che succede in quel paese e i riflessi che avrà su tutto il pianeta. Senti, Daniele, sembra un po' che un vecchio adagio che può funzionare parlando di questa particolare contingenza cinese, ovvero la salvaguardia, la cura del prodotto di esportazione, sia che sbagliando si impara. Certo, uno dice sbagliando sulla pelle degli altri spesso e volentieri si impara, ma poi uno prende in considerazione magari lo scandalo della melamina e si rende conto che il guaio guaio spesso e volentieri anche viene consumato all'interno dei propri confini. Però in parecchi, per esempio il nostro amico Saro Capozzoli, in parecchi sostengono che la Cina in realtà paga la rapidità del suo apprendistato nel diventare attore mondiale di peso assoluto, di altezza straordinaria, ovvero deve ancora poi, una volta stabilita, no, un posizionamento, deve rafforzare, come dire, le fondamenta, l'hardware di questo posizionamento. Sei d'accordo con questa visione? È così, è altrettanto vero comunque che loro imparano molto velocemente. In questi giorni hanno fermato alcune partite di prodotti alimentari che venivano importate sul mercato cinese proprio applicando i protocolli che sono stati messi a punto con riferimento ai controlli del latte che veniva prodotto all'interno. Quindi i cinesi sono assolutamente propensi ad imparare sulla propria esperienza e a far sì di mettere in piedi dei sistemi di produzione e di controllo che mano a mano diventano sempre più solidi anche, certo, da questo punto di vista. Quindi sono errori, se vogliamo, di gioventù in molti casi che talvolta sono stati pagati all'estero, quindi nel caso dei giocattoli è stato così, nel caso degli alimentari l'hanno pagato prevalentemente all'interno, ma in qualsiasi caso ne vediamo poi quali sono gli effetti, cioè l'autoapprendimento, sistemi che vengono mano a mano migliorati, attività di controllo e uno skill tecnico anche dal punto di vista industriale che nel tempo migliora. Senti un po', per concludere, quando saremo vecchi, insomma, si parlerà, no, di questi tempi pionieristici in cui la globalizzazione a quel punto magari sarà del tutto accertata, si dirà: ti ricordi quando andammo a quella fiera enogastronomica in Cina, no? E si presentavano i prodotti italiani. Insomma, a te è capitata proprio questa avventura professionale di recente, hai partecipato a un appuntamento di questo genere, ci dai un breve report di quello che è successo? Il report molto veloce è che per una volta il sistema paese si è saputo presentare bene, le aziende, le istituzioni, i soggetti preposti alla promozione, c'era forse il meglio del Made in Italy nel food e nel vino presente su quel mercato, la reazione è stata molto favorevole. Per quanto quello sia un mercato che risente comunque della contrazione internazionale, è un mercato che noi italiani non battiamo, siamo oltre il 30° posto per le importazioni in quel paese. Un giorno, quando sicuramente avremo scalato, come abbiamo fatto in tutti gli altri paesi, nel Nord America e in Europa, le vette delle classifiche di importazione, riguarderemo quell'esperienza dicendo: beh, quando si è partiti allora non si era così fortunati. Va bene, su queste note ottimistiche, anche a te Daniele inviamo i migliori auguri di buon Natale da Jefferson Ming. Auguri alla redazione e a tutti gli ascoltatori. A presto. All right, you chipmunks, ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon. Okay. Okay, Theodore. Okay. Okay, Alvin. Alvin. Scusa ai miei fedeli chipmunks che tengo qui sotto il tavolino per cantare la sigla di chiusura, ma vi devo una spiegazione che ci è fornita gentilmente da ascoltatore Hermes, che si sta rivelando negli ultimi tempi tra i più attivi, e ci fa sapere con tanto di scheda Reuters, una di quelle che non si discutono, chi diavolo sia questo Zero, questa Small Mountain Goat, piccola capretta di montagna, di cui inspiegabilmente, in cambio di due enormi, giganteschi, ingombranti e anche un po' noiosi panda, lasciatemelo dire, Taiwan ha mandato queste due simpatiche caprette in Cina. Che fine faranno non lo sappiamo, è una mossa politica di un'antica rivalità, chissà quale messaggio ci sarà sotto, chissà se finiranno allo zoo di Shanghai di Pechino o sullo spiedo magari di qualche funzionario, vedremo di seguirne le tracce prima che finiscano appunto in cucina, qui da Jefferson Ming, dove ci sono io, che sono Stefano Pistolini, Emiliano Enrico in redazione in questo momento all'altra parte del vetro, in compagnia di Alessandro Chiappini. A Milano c'è Fabio Cantadori, la mail è jeffersonming@radio24.it. Su Facebook ci trovate a redazione Jefferson Ming, ci trovate a Jefferson Ming Radio 24, e anche il sito della radio www.radio24.it è collegato con tutti, insomma, questi sbocchi, questi porti di Jefferson Ming, che naturalmente vi abbraccia e vi augura le migliori feste.